Ci sono state diverse voci che hanno iniziato ad alzarsi in questi giorni contro la guerra in tutte le sue forme, contro l'invasione russa ovviamente, ma anche indicando le responsabilità di tutti gli attori in campo. C'è stata la denuncia da parte di diversi movimenti delle responsabilità appunto di questi attori, nel senso che bisogna creare un fronte transnazionale di opposizione alla guerra, una politica transnazionale di pace, ed è questo un po' quello che hanno detto ad esempio le femministe russe, il cui appello è stato tradotto in varie lingue, che sfidando la censura e le minacce, ricordo che oltre 6.000 persone sono state arrestate in Russia in questi giorni, hanno lanciato un appello a mobilitarsi a livello appunto transnazionale contro la guerra, dicendo che la guerra è il momento in cui la violenza patriarcale esplode in maniera più acuta. Hanno denunciato Putin che attraverso appunto le retoriche belliche ha riaffermato valori tradizionali, che sono da anni per lui il modo di fare una guerra contro l'autonomia delle donne, delle persone LGBTQ e di tutti coloro che in questi anni si sono ribellati al suo regime. E questo rafforzamento del discorso patriarcale durante la guerra è stato denunciato su più fronti, non solo in questa guerra ovviamente, ma in tutte le guerre, e infatti si sono sentiti dappertutto gli appelli agli uomini che devono arruolarsi per la nazione, o nel caso dello Stato ucraino, il divieto di uscire dal paese per gli uomini dai 18 ai 60 anni. E ci ricordiamo anche i discorsi di Putin, che ha usato un immaginario dello stupro nel minacciare la guerra contro l'Ucraina. Tutto questo è un modo per rendere con forza, con la forza, gli uomini partecipi alla violenza patriarcale che la guerra esprime al massimo grado, e quindi di riaffermare anche le gerarchie basate sul sesso e sul genere. In molti hanno denunciato anche però il rafforzamento del discorso razzista. A parole dicono tutti quanti che vogliono accogliere i profughi ucraini, mentre abbiamo visto il trattamento che è stato riservato in questi mesi ai profughi e rifugiati provenienti da Iraq, Siria, Afghanistan, che per mesi sono stati nel gelo sul confine tra Polonia e Bielorussia, ma intanto i profughi ucraini stanno aspettando per giorni sul confine polacco, perché appunto il regime dei confini continua a lavorare a regime in Europa. Un altro esempio di razzismo istituzionale è quello che succede ancora appunto sul confine polacco, dove sono stati denunciati vari casi di migranti che vivono in Ucraina ma provenienti da fuori l'Europa, molto spesso dall'Africa, che sono fermi al confine e non le autorità polacche non vogliono farli entrare. Oppure ci ricordiamo un altro problema dei governi centro-est europei, per cui appunto i rifugiati ucraini sono, essendo più bianchi, sono diversi da tutti quegli altri, quindi un modo per usare la guerra ancora di più per fare gerarchie tra chi fugge la guerra o chi cerca una vita migliore. Nel frattempo si sta già parlando di permessi per lavoro per i profughi ucraini, che quindi molti governi vedono già come lavoro, forza lavoro a basso costo da mettere nei campi, nelle case a svolgere lavoro domestico e di cura, come fanno, o nelle fabbriche, nella logistica, come capita a moltissimi e soprattutto moltissime ucraine, come sappiamo bene anche qui in Emilia Romagna. Voglio ricordare solo un altro paio di esempi. C'è questa rete femminista transfronterista attiva tra l'America Latina e l'Europa, che proprio due giorni fa ha discusso di come questo 8 marzo vuole essere rideclinato come un momento di sciopero contro la guerra, come forma estrema appunto di violenza patriarcale. È girato inoltre un appello di femministe croate. Questo appello è stato sottoscritto da moltissime altre attiviste femministe in tutta la regione dell'ex Jugoslavia, che ha dichiarato il proprio no alla guerra. Inoltre io sono parte anche di questa rete che si chiama IST, l'acronimo sarebbe Lotte Essenziali Autonome a livello transnazionale, legata anche al movimento italiano di Nuna di Meno, una rete composta da lavoratrici, migranti, attiviste, persone LGBTQ del centro e dell'est Europa, da fuori dall'Europa e anche da altre parti d'Europa, che sta discutendo proprio in questi momenti una presa di posizione per dare voce anche a chi guarda la guerra dall'est, che chiami allo sciopero femminista per l'8 marzo come appunto uno sciopero contro la guerra. E lo slogan che stiamo discutendo è quello di Strike the War, uno sciopero che colpisca la guerra, contro tutti i nazionalismi, i giochi geopolitici, gli appelli a intensificare lo sforzo bellico. Il problema è quello di come creare un fronte transnazionale, dando visibilità alle mobilitazioni che stanno avvenendo in Russia, in Ucraina e in moltissimi paesi europei contro la guerra. L'8 marzo quindi avrà anche in Italia una caratterizzazione di questo tipo? Sì, il movimento femminista transnazionale e anche quello di Nuna di Meno in questi anni ha sempre detto che la violenza patriarcale è legata al capitalismo, allo sfruttamento, al razzismo, e abbiamo sempre contestato con lo sciopero femminista e transfemminista questo intreccio mortifero. Quest'anno la guerra ci mostra che questo intreccio è all'opera nella maniera più insensata, più ripugnante nella violenza di questa guerra. Quest'anno opporsi alla violenza patriarcale in tutte le sue forme, allora vuol dire esattamente scioperare anche contro la guerra.